brutta cosa, brutta brutta, brutta brutta il far la spia, la spia. Ma far tutto ognora suole chi il pan d'altri ha da mangiar. Brutta cosa, brutta brutta, brutta brutta il far la spia, brutta cosa, brutta brutta il far la spia, la spia. Ma fa tutto ignora sole chi il pan d'altri ha da mangiar, tutto tutto tutto tutto tutto tutto chi il pan d'altri ha da mangiar. Che dir qualche bugia e mischiar delle parole con il serio. Col faceto, col faceto, col faceto sappia un poco da imbrogliar il serio. Col faceto, col faceto, col faceto sappia un poco da imbrogliar. Brutta cosa, brutta brutta, brutta brutta il far la spia, la spia. Ma far tutto ognora suole chi il pan d'altri ha da mangiar. Brutta cosa, brutta brutta, brutta brutta il far la spia, brutta cosa, brutta brutta il far la spia, la spia. Ma fa tutto ignora suole chi il pan d'altri ha da mangiar, tutto tutto tutto tutto tutto tutto chi il pan d'altri ha da mangiar.